Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.15 un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. In apertura la cronaca, un imprenditore di 58 anni, Gino Monaco di Fagagna, è morto in seguito a un incidente avvenuto all'alba in Friuli mentre era in sella alla sua moto. Secondo quanto si è potuto apprendere, il motociclista e un'auto sulla quale viaggiavano due persone si sono scontrati lungo l'ex provinciale numero 10 a Fagagna, in via Caporiaco, a poca distanza dalla residenza dell'imprenditore che, dopo il forte impatto, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro un palo della luce. Sbalzato dalla sella, finito a terra a una quindicina di metri di distanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario inviato dalla Sores, ma ogni soccorso è risultato vano. Per la messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti, i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati assunti dai carabinieri. Nelle notti udinesi sono stati registrati altri episodi di violenza con persone ricoverate al pronto soccorso. Porta ancora sul volto i segni del pugno ricevuto il ragazzo aggredito nel sottoscala di un condominio di Cussignacco, Udine Sud, venerdì sera. Un occhio nero circondato da lividi. Erano da poco passate le 8:30 di sera. Si ricorda di aver fatto le scale e aver trovato nella zona del garage una persona nota ai residenti perché dorme e consuma sostanze stupefacenti abitualmente in questi locali, liberamente accessibili. Con lui c'era un altro individuo. Ricorda solo di aver ricevuto un cazzotto da dietro, non ha visto l'aggressore e di aver perso i sensi. Non se la sente di essere inquadrato, ha paura di ripercussioni per la sua famiglia. Da 2 anni indica c'è un viavai di persone in questo sottoscala, potrebbe trattarsi di gente che ha occupato abusivamente degli immobili abbandonati poco distante. A pochi metri i locali in disuso di una palestra fallita da anni, oggetto di una lunga disputa giudiziaria. Animali morti, vegetazione, carta stagnola e sigarette per terra. Qualcuno ci vive dentro, c'è una camicia appesa ad una gruccia. Sull'aggressione indagano i carabinieri, il responsabile non è ancora stato rintracciato. A Udine Nord, 24 ore prima, il dipendente di una pizzeria picchiato e derubato alle 11 di sera. Io non mi sento sicura, lo sfogo su Facebook di Fulvia Pizzoferro, titolare del ristorante. Dove sono le forze dell'ordine durante le sere e le notti? Perché non si vedono? Sono arrabbiata, continua. Un ragazzo di 20 anni si è fatto la notte in pronto soccorso, una maschera di sangue e dolori. Non è giusto. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Disavventura per i passeggeri del volo charter della Condor, partito di prima mattina da Amburgo e diretto a Trieste Airport. Il volo, decollato alle 6:05 dall'aeroporto tedesco, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Monaco, di Baviera, circa a metà del tragitto, a causa di un'urgenza sanitaria a bordo, probabilmente un infarto di un passeggero. L'Airbus A320, con circa 150 passeggeri a bordo, dopo aver lasciato il malato e un familiare a terra, è decollato dalla Baviera, atterrando a Ronchi alle 9:53, 2 ore dopo il previsto. Nessuna ripercussione sulla nave da crociera del vettore tedesco TUI che ripartirà da Trieste in serata. Ancora cronaca, un intervento di soccorso si è protratto fino a tarda sera ieri per recuperare 2 pordenonesi, un uomo di 52 anni e la figlia di 10, scivolati per circa 30 metri all'interno di una cavità di 40 centimetri di larghezza a Roccapietore in provincia di Belluno. Il padre, nel tentativo di soccorrere la figlia caduta nella cavità, è caduto a sua volta. Sul posto si trovavano 2 soccorritori che con l'elisoccorso di Pieve di Cadore e una squadra del soccorso alpino della Val Pettorina hanno avviato le operazioni di salvataggio. La bambina, con un sospetto trauma cranico e un taglio sul volto, è stata la prima a essere riportata in superficie e trasportata all'ospedale di Treviso. Per liberare l'uomo è stato necessario l'intervento del gruppo speleologico della stazione del Veneto orientale. L'uomo, che ha riportato traumi alla schiena e alle gambe, è stato trasportato all'ospedale di Belluno. La pagina del tempo ce lo dà sereno, poco nuvoloso su pianura costa, nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11. Trieste 29 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, Gorizia 30 gradi, Udine e Pordenone 28, Tolmezzo 25 gradi e 5 decimi, Tarvisio 25, Forno di Sopra 23, Sappada 19, Piancavallo 20 gradi. In quota sul Monte Lussari 17 gradi e sullo Zoncolan 14. Tornando sulla costa, Lignano 29 gradi e 5 decimi, 27, temperatura del mare 26 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: su Pinoro e Costa cielo sereno, poco nuvoloso; sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile, possibili locali rovesci o qualche temporale in montagna, meno probabile su qualche zona della pedemontana; caldo afoso in pianura, vento a regime di brezza con vento sostenuto da sud sulla costa. Centinaia di giovani che ieri a Lignano hanno partecipato alla chiusura del G7 Young, il forum internazionale dedicato ai giovani che ha affiancato l'incontro interministeriale sull'istruzione istituito a Trieste. Sottolineata l'importanza della sovranazionalità dell'iniziativa e la centralità della valorizzazione delle risorse umane. Ha puntato i riflettori sui lavori dei giorni precedenti, l'evento che si è tenuto a Lignano, all'Arena Alpe Adria, a conclusione del Young G7 for Education, la 4 giorni dedicata alla formazione, organizzata in parallelo all'iniziativa governativa di Trieste e che ha coinvolto 400 studenti e 70 insegnanti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, oltre che da Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. A loro si sono uniti anche i paesi ospiti di Brasile, Unione Africana e Ucraina. Un'iniziativa che è andata al di là dei confronti su arte, musica, sport, oltre che su media digitali e alimentazione, proprio per il suo peso internazionale, così come chiarito dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. L'opportunità per i paesi G7 di collaborare con i paesi africani per garantirgli uno sviluppo, per garantire ai ragazzi e alle ragazze che gli vivono delle opportunità, per garantire il suo futuro. Centrale però il tema dell'educazione, soggetta alle sfide di un mondo che cambia e con cui deve stare al passo, ma considerata fondamentale per valorizzare le risorse umane a disposizione. Per questo motivo, ha sottolineato il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, intervenuto all'evento, la scuola che si vuole sviluppare è quella dell'ascolto, che mette al centro i giovani e li rende protagonisti, perché sia uno strumento pensato per gli studenti e non un ente a cui gli studenti si devono allineare. Evidenziata infine anche l'importanza formativa di un'iniziativa che ha riunito voci e ispirazione da realtà diverse e in grado di imprimere stimoli in direzioni eterogenee, così come ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. Speriamo che questi giorni siano stati utili ai ragazzi per essere attivi promotori di iniziative importanti per migliorare l'educazione e l'istruzione in Italia. Passiamo allo sport. Titolo italiano, primato personale e passaporto olimpico per l'ostacolista Giada Carmassi, che ai campionati assoluti di atletica ha vinto i 100 ostacoli. Giada Carmassi supera l'ultimo ostacolo per le Olimpiadi. L'atleta di Magnano in Riviera conquista il titolo italiano dei 100 ostacoli agli assoluti di La Spezia con il tempo di 12,87, migliorando di 4 centesimi il proprio personale. Prestazione che a 30 anni le permette di scalare il ranking mondiale. 12,77 è il severo tempo richiesto, ma conta essere tra le prime 40 per fare la valigia per Parigi. Non sto ancora realizzando quello che è successo. Ho tagliato il traguardo. Ho visto che ero prima, che avevo vinto, e già lì è stata un'emozione incredibile, anche in vista di questo ranking per le Olimpiadi, che magari adesso c'è una speranza in più per riuscire a balzare all'interno. E poi quando ho messo un po' a fuoco il tempo ho detto wow, bellissimo, sono contentissima. Quarto tempo italiano di sempre per la portacolori dell'esercito dopo Bogliolo, Borsi e Caravelli. Una rincorsa partita quest'anno da Bruxelles 12,95 e poi Madrid 12,91. Una rinascita per Giada dopo i problemi fisici, la tentazione qualche tempo fa addirittura del ritiro, e ora sotto la guida di Emanuele Olivieri la dimostrazione di poter essere competitiva ad alto livello. Ho fatto tantissime gare e ho visto che stavo consolidando abbastanza i tempi sotto i 13 secondi e quindi speravo che questo tempo venisse fuori. Oggi è successo e è successo proprio nell'occasione più importante, perché proprio domani si chiude il tempo per poter fare i minimi o i punti per il ranking per le Olimpiadi. Ecco, è un sogno, sono troppo contenta. Agli assoluti di La Spezia anche il secondo posto per la triestina Elisa Di Lazzaro del gruppo sportivo Carabinieri con 13,02. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti musicali. Alle 21 al Castel di San Giusto a Trieste, Carmen Consoli nella tappa triestina del suo nuovo tour evento Terra Canum Senti. Sarà il parco dell'ex centrale idroelettrica di Malnisio di Montereale Valcellina questa sera alle 21 ad accogliere Memoria Adriatica, concerto di musica balcanica con l'orchestra triestina Max Maber. Tornano dopo successo ottenuto lo scorso anno per l'ultima salata del Tedesco al Boschetto del Ferdinandeo di Trieste gli spagnoli The Groggy Dogs alle 21.15. Inaugurazione a Pordenone per i concerti al Parco di San Valentino con la Brass Ensemble dell'Orchestra da Camera di Pordenone alle 19. Era questa l'ultima notizia, collaborato in redazione Danila Sossi, per la parte tecnica Carlo Morello e Vassia Krismancic, da Maria Spezia e Armando Mucchino. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.